1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo qui, siamo pronti. E voi debosciati, che state facendo? Siete già attivi? Allora, che faremo oggi? Beh, parleremo di quello che ieri è stata la conferenza di Matteo Renzi. Avremo ospite Flavio Zanonato, l'ex ministro dello sviluppo economico nel governo uscente, è appena uscito, quello di Letta. Avremo ospite Claudio Velardi. E poi torneremo sulla saga che anche nei giornali è trattata, di quello che è successo alla provincia autonoma di Bolzano, il rimborso del vibratore. Ma com'è possibile? Avremo ospite Pius Leitner, che è stato già nostro ospite la scorsa settimana, a parlare della vicenda dei vitalizi scandalosi del Trentino Alto Adige. Ma insomma, non anticipiamo molto perché già sui giornali c'è qualcosa, e allora proprio dai giornali vogliamo partire. È giovedì 13 marzo, buongiorno ancora. Allora, i titoli sono quasi tutti declinati sulla conferenza stampa ieri di Renzi. Il Sole 24 Ore apre così: piano sull'IRPEF, stop alla Fornero, Renzi, da maggio 1000 euro in più l'anno, rendite finanziarie al 26%, mini sconto IRAP. Per il Corriere della Sera: più soldi in busta paga, più tasse sulle rendite. Repubblica: fisco e lavoro, la frustata di Renzi. La Stampa: tasse e lavoro, lo scatto di Renzi. Il Messaggero: IRPEF, sconto da 1000 euro l'anno. Il Fatto Quotidiano invece, un po' maliziosamente, titola così: 80 euro in busta paga per vincere le europee. Per Libero: tasse, Renzi gioca d'azzardo. Il Giornale: le tasse secondo Matteo. Mentre il Manifesto titola: c'era una svolta, giocando su questo, la svolta buona, che è quello che ha presentato Renzi. Mentre l'Unità: più soldi in busta paga. Chi apre invece in modo diverso, comprensibilmente, è Avvenire. Proprio oggi abbiamo sentito un anno dalle elezioni di Papa Francesco, i doni di Francesco. Questo è il titolo dedicato a un anno del pontificato di Bergoglio. Ma come detto, allora la vicenda, no? Del vibratore messo a rimborso alla provincia autonoma di Bolzano. Spese loro, soldi nostri, anche se i responsabili di Freiheitlichen, i libertari, questa è la traduzione di questo partito di destra indipendentista della provincia di Bolzano, si presentano al Corriere della Sera, o meglio, Giusy Fasano li va a intervistare, pagina 21, i giocattoli erotici finiti tra i rimborsi per errore. Un errore, cari italiani, è stato un errore. Si presentano in tre: Ulli Maier, segretaria dei Freiheitlichen, col leader storico del movimento Pius Leitner, che sarà nostro ospite alle 8:45, il collega Sigmar Stöcker, che subito dice: eccomi qua, sono quello del vibratore, quello del compleanno, molto piacere, sono Sigmar. Ora tocca a Ulli Maier. Chiariamo subito una cosa: in questa storia non c'è nessun vibratore. Ah, bene, non c'è nessun vibratore, perché era un anello. Ah, in che senso? Un anello da uomo che vibra. Ah, beh. Sì, e poi c'erano un tanga e due palline antistress a forma di seni. E sa qual è il vero scandalo di questa storia? E Giusy Fasano chiede: immagino che i gadget sexy siano finiti nelle richieste di rimborso. No, risponde Ulli Maier, che un documento segreto sia finito nelle mani dei giornalisti. Questo è lo scandalo, secondo lei. Non ne sapeva nulla nemmeno la procura. Mi sembra fin troppo evidente che si è trattato di un banale errore di contabilità. Non ci vuole un genio per capire che se avessimo voluto farla sporca non avremmo certo messo in bilancio uno scontrino su cui c'è scritto vibratori. E comunque dice, guardi, è andata così, il 16 maggio 2012 era il compleanno di Sigmar. Noi consiglieri del gruppo abbiamo pensato di fargli un regalo scherzoso. Abbiamo chiesto alla nostra collaboratrice di andare a comprare quei gadget al sexy shop e siccome ha anticipato lei la spesa avrà tenuto lo scontrino per chiederci soldi. Sì, ma mi scusi, è stato registrato a rimborso. Per qualche motivo che non conosco, quel benedetto scontrino è finito nei conti da registrare, ma non mi chieda come, perché non lo so. Naggia, io lo so, è l'Italia così, degli scontrini che saltano, impazziscono, vanno di qua, saltano di là incredibilmente finiscono nella lista degli scontrini da rimborsare. E sono effetti alla David Copperfield che in Italia evidentemente abbiamo visto abbastanza spesso. Comunque conclude l'intervista a Sigmar, quello del compleanno, che dice: comunque quei regali che mi hanno fatto per il compleanno scherzosi non li ho nemmeno aperti, sono ancora impacchettati, vuole vederli? E finisce così. Quindi un errore, c'era un regalo giocoso che per motivi che non approfondiamo, non si possono chiedere perché non si capiscono quali siano questi motivi misteriosi, è finito nei rimborsi. Va bene, questa è la vicenda che dà la stura all'Unità di fare una pagina, la pagina 8, che abbiamo visto spesso, cioè ricapitolando tutti gli scandali avvenuti nelle regioni, rimborsopoli, viaggi, mutande, banchetti, la carica dei 500, rimborsopoli, scrive l'Unità con Marco Bucciantini, ormai non risparmia alcuna regione, soldi pubblici usati con grande fantasia. I reati vanno da corruzione, truffa, peculato, rimborsi illeciti e sono ovviamente riepilogati, non so, gli spazzolini del Trota, Renzo Bossi, il SUV di Batman, Fiorito, le mutande di Cota, ma ce n'è per tutti i gusti. Continua ed è sempre più, diciamo, anche umanamente difficile la saga della vicenda del baby escort al Parioli, con la vicenda che coinvolge di riflesso, perché c'è l'indagato, l'indagato è suo marito, l'onorevole Alessandra Mussolini, perché ogni giorno appaiono dei dettagli che i giornali rendono noti e l'ultimo è questo: le telefonate. A che ora ci vediamo domani? Così il marito di Mussolini e la quindicenne, titola per esempio il Corriere della Sera, pagina 21. Tra i clienti intercettati, tra l'altro, fa sapere anche un funzionario che chiamava da un'utenza di Bankitalia. Nell'elenco consegnato dai carabinieri e ai magistrati, un'utenza intestata alla Banca d'Italia, ma soprattutto, ecco, la vicenda della voce registrata del marito di Alessandra Mussolini, quella telefonata "ci vediamo", seguita da dettagli su ora e luogo, a far scattare per lui l'accusa grave di aver sfruttato prostituzione minorile, come scrive Fiorenza Sarzanini a pagina 21 del Corriere. C'è da dire che il Messaggero riesce per pochi secondi a parlare con Alessandra Mussolini, il cui telefono squilla vuoto da giorni comprensibilmente, e Cristina Mangani racconta in prima pagina del Messaggero un filo di voce: cosa posso dire? Sono distrutta. Alessandra Mussolini risponde così al telefono per un secondo e si sente chiaramente che piange. Lei, la passionaria della politica, sempre in prima fila a battagliare, ora la vittima inconsapevole dell'uomo col quale ha praticamente passato tutta la vita, l'ex capitano della finanza Mauro Floriani, suo fidanzato dai tempi della scuola e poi marito. E scrive il Messaggero poi all'interno, a pagina 15: dal giorno in cui Floriani è finito nell'inchiesta sulle baby squillo, il matrimonio è andato in frantumi. Da più di una settimana lui ha fatto i bagagli, ha preso un appartamento non molto lontano da quello della famiglia, mentre Alessandra ha trovato protezione dalla mamma Maria Scicolone, dove si è trasferita con i tre figli. Devo pensare a loro, devo proteggerli, ha detto alle poche persone che sono riuscite a parlarle. E insomma, una situazione davvero da titolo: la mia vita è distrutta. Tra l'altro Maria Giovanna Maglie fa un articolo sul libro in prima pagina e poi è richiamata, e poi intera pagina 17, difendo l'onorevole Alessandra Mussolini. L'indagine sul marito ha scatenato il web spazzatura, i soliti ignoti che invocano le quote rosa insultano chi è moglie e vittima. Una difesa a spada tratta, quella di Maria Giovanna Maglie per l'onorevole Mussolini, che dice non è colpevole di nulla. In questo caso appunto diventa protagonista in quanto moglie di una persona indagata. saltando di pane in frasca, come si suol dire, torna la vicenda. Ormai ci sarà un momento in cui andrà anche chiusa. Quella della casa, la famosa, qual è la più famosa casa, guardo l'alpino Peter Bescapè, la più famosa casa in Italia che è diventata storia? Beh, la casa di Claudio Scajola, no? Quella al Colosseo, quella casa disgraziata mi ha rovinato, ora la vendo, questa di la verità l'abbiamo sentita da un po', ora la vendo ma al suo prezzo reale. Claudio Scajola parla in un'intervista di un'intera pagina a Carlo Bonini su Repubblica, risponde al terzo squillo, per la verità l'inizio è questo, ancora, basta, la prego, cosa dovrei aggiungere? Finalmente un tribunale ha detto la verità, cioè che il sottoscritto sosteneva dal primo giorno che non ero nelle condizioni di conoscere il maggior prezzo di acquisto dell'immobile. Effettivamente il giudice ha sentenziato che Scajola non sapeva che la casa era stata pagata di più del prezzo con lui pattuito, insomma era davvero il prezzo a sua insaputa. Beh, ma mi scusi, allora Bonini inizia a riepilogare la vicenda e Scajola a un certo punto dice: guardi, non ho più avuto contatto con Anemone da quando questa storia è cominciata, non ho intenzione di parlare con lui, peraltro di lui avevo una nomea di una persona degnissima. Non ho neanche più voglia di parlare di questa disgraziatissima casa dove non metto più piede da un anno e mezzo. Ma non aveva detto che l'avrebbe venduta? Chiede Bonini. Grazie a Dio siamo proprio in questi giorni addirittura d'arrivo con la vendita. Capisce bene che finché il processo non si è definito e con l'attenzione mediatica che ha ricevuto, vendere quella casa era molto difficile. C'era una sorta di maledizione. In pochissimi la volevano e quei pochissimi erano preoccupati dei rischi legati al processo. Comunque, ora la vendo a un prezzo certamente più alto di quella che l'ho acquistato. È stata ristrutturata al prezzo reale, mi sembra assolutamente una ovvietà. La casa di Scajola. Cari italiani, dopo la pubblicità ci tuffiamo in quelle che sono state le promesse, annunci, per qualcuno dice televendite, di Matteo Renzi ieri, con i tanti annunci fatti per gli italiani. Alessandro Milan, il giornale parlante dell'informazione. Meglio del grillo parlante. Allora, cari ascoltatori, ringrazio Andrea che mi scrive: ciao Alessandro, mi trovo in tasca non so come un tuo scontrino del supermercato, vabbè lo pago io, grazie Andrea. E succede così, e scontrini che vanno, vengono, saltano e cadono nelle tasche o nelle richieste di rimborso più incredibili e strampalate. Allora, veniamo a quello che ieri è stato l'annuncio del Premier Matteo Renzi, una conferenza stampa anche pirotecnica, e ci concentreremo, e molto i giornali si concentrano anche sul modo, lo stile in cui il Premier ha enunciato tutte le novità. Intanto vediamole queste novità. Il Sole 24 Ore dedica molte pagine a questo. Emilia Patta, pagina 5, il titolo dell'articolo è: Renzi, sconto IRPEF da 10 miliardi a maggio, il taglio del cuneo fiscale partirà dal 1 maggio e riguarderà 10 milioni di italiani, quelli che guadagnano fino a 1.500 euro al mese. Si divideranno gli ormai famosi 10 miliardi di euro che il governo ha deciso di stanziare. 1.000 euro l'anno, circa 80 euro al mese in busta paga. Così, con l'aiuto di slide stile Obama, frasi brevi e semplici, il Premier Renzi si presenta nell'affollata sala stampa di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Si parte per il grande cambiamento, ma non subito. Quello approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è infatti un atto di indirizzo del Premier con tanto di coperture indicate: spending review, calo dello spread con conseguenti minori interessi sul debito, mentre i provvedimenti, probabilmente più decreti in successione, arriveranno appunto entro fine maggio, quando molti italiani dovrebbero vedere per la prima volta il taglio ben visibile in busta paga. Ovviamente qui c'è il nodo coperture. Sulle coperture raccontano Marco Mobile e Marco Rogari a pagina 6. Ipotesi tutte da verificare. C'è anche un'infografica molto interessante per capire, con una sola fotografia, Ecco, IRPEF e lavoro, 7 miliardi dalla spending review del 2014, 2,5 miliardi sono i risparmi dal calo presumibile dello spread, 1,6 miliardi dal gettito IVA e pagamenti a pubblica amministrazione. Poi c'è un taglio annunciato dell'IRAP di 10 miliardi, di 2,6 miliardi, il 10%, 2,6 miliardi. Investimenti per 2,1 miliardi nella scuola, vecchi fondi di edilizia scolastica, c'è il piano casa, tutte le coperture e tutte le destinazioni annunciate ieri da Matteo Renzi. Sul puzzle delle coperture però ovviamente c'è anche molto da capire. Il Premier per esempio punta a 7 miliardi di revisione della spesa nel 2014, mentre Cottarelli, il commissario per la revisione, scrive Il Sole, si ferma a 3 miliardi certi da recuperare. Anche qui come si recuperano? Anche Il Messaggero fa una pagina molto interessante di come Carlo Cottarelli pensa di recuperare i soldi. Beh, intanto un pochino dalle pensioni. Attenzione, cari ascoltatori, perché Cottarelli, so che molti pensionati ci ascoltano, ha detto si sta pensando a, aperte virgolette, un contributo temporaneo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati a beneficio della fiscalizzazione degli oneri per i lavoratori neoassunti. Interesserà questo il 15% degli assegni previdenziali, ha precisato Cottarelli, ma fa sapere il Corriere della Sera con Stefania Tamburello a pagina 6, siccome il 95,3% delle pensioni arriva solo a 2.400 euro lordi in Italia, e in questa forbice del 15% in cui si andrà a pescare per un contributo di solidarietà finiscono certamente le pensioni grosso modo sopra i 2.000 euro lordi mensili. Pensionati con 2.000 euro lordi mensili o in su, da 2000 in su, presumibilmente voi rientrerete in quella fascia a cui verrà chiesto un contributo di solidarietà per finanziare i lavoratori neoassunti. Allora, ovviamente i provvedimenti sono tantissimi, c'è anche l'aumento delle rendite, la tassazione delle rendite finanziarie, se ne ha parlato tante volte, dal 20 al 26% per allenare l'Europa e utilizzare questi fondi per tagliare il 10% dell'IRAP. E Libero dice: attenzione, la tassa sulle rendite al 26% c'è rischio di fuga. Per coprire il taglio dell'IRAP, il Premier aumenta l'imposta sui guadagni finanziari di 6 punti in un colpo solo. Che succederà? Sta di fatto che in un colloquio con Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Matteo Renzi, appena finita la conferenza stampa ieri, dice: io sono contento, è un'operazione importante, finalmente dal 1° maggio qualcosa in questo paese cambia davvero, e se non si fa in tempo il decreto per tagliare l'IRPEF lo faccio, e come. A chi ironizza, chi ha ironizzato per esempio sul venditore di pentole, non hai la minima idea di cosa voglia dire guadagnare 1500 euro al mese, dover rinunciare a comprare un libro ai propri figli, non poter uscire a mangiare una pizza. Le auto blu le metteremo all'asta sul serio, anche quella di Brunetta, che ironizza, vedremo che offerta riceveremo. E poi dice alle imprese: non ce l'ho con Squinzi, è una persona per bene, non sono permaloso, non mi sono offeso con Grillo, si figuri se mi offendo con Squinzi. E poi il taglio dell'IRAP c'è, forse non nella misura che chiedeva Confindustria, ma c'è. E questa, dice Renzi, è la manovra di sinistra e più di sinistra degli ultimi tempi, per come intendo io la sinistra. Non abbiamo fatto assistenza, abbiamo orientato l'intera manovra sull'obiettivo di togliere tasse sul lavoro senza aumentare spesa pubblica, anzi tagliandola, facendo pagare un po' di più solo le rendite finanziarie senza toccare i bot. Lei conosce un sindacalista al mondo che si lamenterebbe? E poi dice: sul Senato, se salta la riforma, non è che salta il governo, salto proprio io e si chiude la mia storia politica. Un Renzi che dice, insomma, andiamo avanti. Il fatto che non siano stati presentati i decreti è perché, come scrive in retroscena Repubblica o anche il Fatto Quotidiano, qui c'è stato il primo braccio di ferro con l'economia. L'alto là di Padoan al Premier: così non si può fare il decreto. Il titolo del retroscena di Federico Fubini su Repubblica, pagina 7, per alzare il deficit oltre il 2,6% serve il sì di Parlamento e Unione Europea. A un certo punto fa sapere Repubblica, Padoan ha fatto sapere a Renzi: il decreto così non si può fare. Si può solo mettere in Consiglio dei Ministri, in cantiere, ma non deliberare una situazione del genere, anche perché lunedì prossimo Renzi dovrà incontrare Angela Merkel e dovrà vedersela con l'Europa. A proposito della modalità, sono tantissimi gli articoli che si concentrano sulla modalità, no? Che è stata presa molto in giro anche dalla rete, paragonando Matteo Renzi a un venditore di pentole, a un promotore di una qualche televendita. Beh, il graffio più urticante è quello di Iena, pagina 3 della Stampa. Ieri a Palazzo Chigi, conferenza stampa del premier Vanna Marchi. Ma comunque anche Mattia Feltri sulla Stampa: venghino siori venghino, Matteo il teleimbonitore, scrive a pagina 9, saranno fuggiti tutti gli spiriti austeri dolenti di Alcide De Gasperi e Mario Segni, forse pure lo spirito burrascoso del Mascelluto, via da lì. Dopo l'esorcismo o il sacrilegio, il monellaccio si è preso Palazzo Chigi col piglio di Matteo provare per credere e la faccia di Matteo super maxi eroe. Col telecomando in mano a cambiare le slide, ora si chiamano così, ma non erano altro che poster a metà tra la promozione del 3x2 e l'investimento sicuro nella polizza vita lunga e felice, elencava le conquiste di domani e dopodomani, mostrando manifesti col carrello della spesa colmo di broccoletti e uova, bimbi biondissimi piegati sul quadernone, braccia muscolose nell'atto di sguainare la scimitarra per 100 giorni di lotta durissima contro il nemico paludoso, quello che si è fatto sempre così. Una cartellonistica da copertina di Depliant, pesci rossi nella boccia di cristallo, operai che restituiscono ai muri tinte fresche, lampadine tra le dita a rischiarare le tenebre. Insomma, effettivamente anche la modalità ha molto colpito, tanto che la Stampa accompagna a questo articolo un'intervista a Marcello Dell'Utri. Paolo Colonnello lo intervista, dice: ma guardi, è straordinario, lo vedevo in TV. Io l'avrei preso subito a Publitalia, avrei fatto un fatturato eccezionale, un bravissimo venditore. Ha sentito quando ha detto che se non riesce a farla di forma se ne va? Ma un grande, così perentorio non ho mai visto nessuno. Se riuscirà a fare ciò che dice, molto meglio di Berlusconi, perché poi diciamo la verità, il povero Berlusconi non è riuscito a farlo. E questo Marcello Dell'Utri sulla Stampa, non certo un endorsement che farà piacere a Matteo Renzi. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Venghi, Alessandro. venghi Mauro. Ho preparato delle slide, se possiamo mostrarle. In radio non è, non è facilissimo, però. Ho passato la notte, però va bene. Però tu fai click, va bene, poi dopo vediamo. Avevo quello che. Ho preparato delle slide bellissime. Vabbè. No, allora però le trovano tutte le nostre slide. Noi le chiamavamo pagine, però se vuoi adesso le chiamiamo slide, le trovano tutte in edicola i lettori, anche nell'edizione digitale. È certo. No, volevo dirti ad esempio una cosa, di segnarti questa data, 27 marzo 2015, se hai l'agenda sotto mano. Sì, se sarò ancora vivo anche, perché. No, mamma mia, no, ma non sei ottimista. No, ma io sono ottimista, ma ragiono giorno per giorno. Comunque, bene, me la sono segnata. 27 marzo 2015 è il giorno entro il quale deve essere attuata la delega fiscale. Oh, bene, segnato. Quindi il nuovo fisco ha una data di partenza, sarà quella lì, entro quella data bisogna attuare il nuovo fisco. Lo riferiamo, lo scrive Giorgio Costa, tra le varie pagine, e sono molte ovviamente che spiegano invece le novità illustrate ieri, annunciate ieri dal Presidente del Consiglio, ma anche soprattutto con riferimento alle questioni di lavoro che, insomma, al di là del metodo, ecco, dell'approccio, del piglio, c'è tutto questo, sono questi importanti cambiamenti sui contratti a termine, sulla cosiddetta legge Fornero, quindi sono cose che vengono spiegate molto in dettaglio nelle nostre prime 10, 12, 13, 14 pagine, insomma c'è parecchio da leggere oggi. E poi per Radio Fisco il redditometro, sì. Perché dopo la circolare delle entrate, attenzione, facciamo un po' di calcoli, allora come cambia l'approccio al redditometro, dovrebbe diventare meno, come dire, invadente, però rimando al lavoro di norme e tributi. E poi sono un po' in imbarazzo perché ti devo segnalare una cosa, una notizia che c'è nelle pagine di Finanza. Sì. Però dimmi che non ti arrabbi. Boh, guarda, mai. No, ecco, si parla del bilancio dell'Udinese Calcio. Sì, grande squadra. No, perché sai che Gianni Dragoni fa sempre questa serie di analisi, certo, dei conti. Ecco, l'Udinese chiuderà l'esercizio con 32 milioni di utile. Ottimo. ed è, credo, Gianni scrive che è forse record, la più virtuosa, record forse assoluto, da sempre, praticamente sono meglio della squadra di Torino, voglio dire, cioè, certo, hanno fatto più utili di qualsiasi altra squadra. E perché me la dovrei prendere per l'Udinese? No, perché siccome era l'Udinese non eri stato a Udine. No, ma io sono un tipo atletico, come sai, quindi molto, questo ti fa onore. Devo dire il saluto finale? Sì. Mando la slide? No, vai, slide. Traffico. Alessandro Milan, per Pupone, per l'informazione. Allora, grazie caro ascoltatore, ti abbraccio, andiamo a fare un giro magari da un buon dottore. No, scherzo, grande affetto. Allora, il one man show di Renzi, non solo dell'Utri, c'è anche retroscena di come la presa Berlusconi, pensate, racconta il Corriere della Sera, perfino lui, che pure continua a ritenerlo simpatico e certamente diverso dai comunisti ai quali eravamo abituati, parole di Berlusconi, scrive il Corriere, ieri è rimasto a bocca aperta, scrive Paola Di Caro sul Corriere, capisco lo stile, la voglia di stupire, ma stavolta ha esagerato, così è troppo, c'è una misura da rispettare, è stato eccessivo, sembrava un venditore e non uno statista, non mi è piaciuto. Pensate che Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei, nel racconto della giornata di ieri, in prima pagina di Repubblica e poi pagina 6, dice: abbiamo carpito questo commento a Maurizio Lupi che si mangia con gli occhi Renzi mentre parla e poi sussurra: questo è peggio di Berlusconi. Detto, scrive Francesco Bei, in senso buono si intende, cioè nella capacità di essere un venditore perfetto. Vabbè, insomma, ci sono molti articoli proprio sul modo in cui Matteo Renzi ha illustrato questi numeri. Intanto, curiosità, la moglie Agnese, racconta il Quotidiano Nazionale con Laura Natoli, a pagina 7, ha chiesto l'aspettativa da professoressa. Lascio e prendo l'aspettativa, lo aveva sussurrata qualche collega. Agnese Landini, 37 anni, moglie del premier Renzi, lo ha fatto. Ha lasciato l'incarico dell'educandato Santissima Annunziata di Firenze, dove era insegnante precaria di italiano e latino dall'ottobre scorso. Il periodo di supplenza sarebbe finito a giugno, ma vista l'impegnativa situazione familiare, tre figli a cui badare, il marito premier, ha preferito mettere da parte la sua professione e ha chiesto l'aspettativa che le garantisce comunque di restare nelle graduatorie. Questo la moglie. Intanto ieri è stata approvata la legge elettorale alla Camera, ora al Senato, quindi ribadisco a tutti che mi dico: ma come continui a contare la 45esima settimana decisiva? Beh, insomma, una legge dello Stato è tale quando viene approvata anche dal Senato. Però certo, ieri c'è stato il primo sì all'Italicum, quello che ha fatto dire a Matteo Renzi: nonostante i gufi, la legge elettorale va. Dentro il PD restano le tensioni, titola comunque pagina 10 il Corriere della Sera, si vedrà ora al Senato. Qualche notizia di cronaca dall'estero, ma ha colpito molto questo, ce la prendiamo con la casta in Italia, ma sentite quello che succede in Francia. L'ex premier francese Dominique de Villepin, che è stato anche un alto funzionario al Ministero degli Esteri e ora svolge una redditizia attività di consulente internazionale, è andato a lavorare un giorno e si è preso 100.000 euro. Voi dite: ma com'è possibile? Ebbene sì, è andato a lavorare un giorno, perché evidentemente con un giorno da lavorare scattava una buona uscita, un bonus da 100.000 euro che aveva accumulato, ma gli mancava un giorno, e allora Villepin al lavoro per un giorno e in tasca 100.000 euro di buona uscita, così titola il Corriere a pagina 13, ma anche Repubblica a pagina 22, 100.000 euro per un giorno di lavoro, l'exploit pensionistico dell'ex premier francese, che commenta come ha commentato: non lo sapevo. Pure la pensione a sua insaputa in Francia, vedete che facciamo scuola, 100.000 euro al giorno, ma lui non sapeva. Una notizia che proviene dall'estero, e c'è una pagina della Stampa e del Secolo XIX, e la voglio citare perché Io sono fieramente oppositore della pena di morte sempre e comunque in qualsiasi caso, anche perché succedono cose come quella che è successa in America. Glenn Ford, liberato con tante scuse dopo 29 anni nel braccio della morte. L'ultimo dei grandi errori giudiziari americani, è stato accusato di omicidio nel 1983, si è fatto 30 anni nel braccio della morte e quindi ha rischiato varie volte che la sentenza venisse eseguita e venisse giustiziato, ma dopo 29 anni dicono ci siamo sbagliati, lei è innocente. Nessuno prima di lui era rimasto così a lungo in attesa del boia per essere poi scarcerato. A chi gli chiedeva come si sentiva una volta uscito, ha detto la mia mente va in tutte le direzioni, non mi sento bene, racconta Stefano Trincia sul Secolo XIX, pagina 9. Era stato condannato a morte a incastrarlo una donna che in seguito testimoniò di avere mentito. Lui dice: mi hanno tolto 30 anni di vita per qualcosa che non ho fatto e ora non posso più tornare indietro. Anche La Stampa dedica una pagina a questo. Stati Uniti, libero dopo 30 anni nel braccio della morte. Glenn Ford, il giudice dice ci sono nuove prove, è innocente. Mi fermo qui con il premio, come sempre all'articolo più inutile scovato sui giornali. La carta costa, oggi lo devo dire, quando ho visto mezza pagina sul Corriere, firma Aldo Cazzullo, sul nuovo libro di Follini, di Marco Follini, Demagogia e politica virtuale, le accuse di Follini, ho detto no, non ho letto l'articolo, non l'ho letto, non leggerò neanche il libro, ma no, mezza pagina del Corriere sul libro di Marco Follini, no, la carta costa, la carta costa.